tutto si può correggere e migliorare, ma si tenga presente che l'Italia era l'unico paese, fino adesso forse, speriamo, se Salvini non si mette di traverso un'altra volta per bloccare questa proposta, che non aveva una tassa sulla mobilità proporzionale alle emissioni di CO2. Finalmente ce l'ha, e quindi se vuoi stare nel mondo devi sapere che vai in quella direzione. Qual è però cosa manca da questa legge? È che tu fai pagare l'inquinamento, devo dire anche poco, 150 euro se ti compri un'auto nuova, che non te ne accorgi neanche, entra nello sconto del concessionario perché è l'1% del prezzo medio di vendita. Paga molto chi si fa l'auto di lusso iperinquinante, il grande SUV, l'auto top di gamma, piuttosto che sportiva, e si avvantaggia una platea di chi si fa l'auto ibrida elettrica e le auto molto piccole, le city car. Chi è che però viene svantaggiata? La Fiat, ma non perché è la povera Fiat, ma perché la Fiat ha fatto la scelta di mandare la produzione all'estero delle Panda e tutte le altre auto che sta promuovendo dalla Jeep, dalle Maserati, dall'Alfa Romeo alla cosiddetta categoria premium, sono tutte auto inquinanti. È la Fiat che è in controtendenza, altrimenti se si guarda il mercato, il 53% delle auto vendute sono meno di 110 euro di emissione di CO2. Poi dicevo, la norma si può agevolare, ma il problema fondamentale non è far pagare chi inquina e incentivare l'auto elettrica. Il problema grosso è che questa norma non si occupa né del bonus né del malus. Il pensionato dei Napoli con la benzina euro zero, che prima o poi non potrà più circolare, e comunque inquina, piuttosto che il pendolare della pianura padana con l'auto diesel Euro 3 che gli viene bloccata la circolazione perché inquina. Di questi qua la manovra non parla. Noi abbiamo proposto invece un bonus rottamazione, ma non per dargli illuderlo di comprarsi l'auto elettrica, perché ragazzi l'auto elettrica per colpa delle case automobilistiche costa ancora troppo cara, è inaccessibile per questo. Allora a questi qui dobbiamo dare, piuttosto se un pensionato il taxi, fino a 1000 euro di bonus rottamazione, la sharing mobility, la mobilità elettrica leggera, il tweet, il quadriciclo, il triciclo, lo scooter elettrico, che ormai c'è, persino la Vespa l'ha fatto. Con queste alternative ci si potrà muovere in futuro. L'auto elettrica o è condivisa, o è in sharing, o è a noleggio, oppure chi è che se la potrà permettere? Ma non soltanto oggi, anche domani. In questo paese c'è un problema anche culturale a livello produttivo, cioè la transizione, la riconversione a una produzione più sostenibile spesso non viene presa in considerazione seriamente. Ma veramente è un problema di tutti i paesi, basta vedere cosa è successo in Francia con il Gilets Jaunes. È assurdo che chi governa, che sia Macron o che sia Salvini, Di Maio, non può pensare al bene del popolo nella sua segreta stanza e tirar fuori delle manovre. Deve consultare le parti sociali e deve cercare di far capire che bisogna andare tutti nella stessa direzione, deve fare delle politiche industriali conseguenti. Insomma, per dirla con un esempio molto chiaro, non si può far pagare di tasse meno il gasolio per la benzina e poi dire sono tutte auto a gasolio con le istituzioni di circolazione. Ragazzi, l'avete voluto voi, quindi fare una politica coerente e non solitaria. Un emendamento alla manovra economica proposto da Legambiente sulla micromobilità elettrica è passato in commissione alla Camera. Ti chiedo di raccontarci quali erano le vostre proposte che sono state recepite. Prima di tutto permetterne la circolazione, diciamo la verità, c'è un fantasma in Italia, sono 45.000 mezzi di micromobilità elettrica venduti nel 2017 che, siccome non sono previsti, semplicemente non sono previsti nel codice della strada, possono essere sicuri, non sicuri, non si sa, possono circolare sul marciapiedi, no, a meno che non superano i 6 km all'ora, cioè tutti, sulle piste ciclabili, siccome non sono biciclette, no, sulla carreggiata delle strade, neppure, eppure la gente comincia a usarle, quindi dobbiamo cambiare il codice della strada, visto che non si può cambiare il mondo che va in quella direzione. Il mezzo di micromobilità elettrica è fantastico, perché uno se lo porta in macchina, sul treno, in metropolitana, sul tram, se lo mette sotto le cittadinanza e gli serve per fare intermodalità, cioè per fare la mobilità sostenibile del futuro. L'idea di più il treno della metropolitana diventa più facile se non ci fossero, quindi perché impedirla? Finalmente speriamo che nei vari casini litigate con la Lega Nord e altre cavolate di questo genere questo emendamento non cada, speriamo che venga confermato. Questa micromobilità sono mezzi un po' particolari anche con nomi strani, ma li stiamo vedendo in giro, come già ci ricordavi, i Segway, gli overboard, i monopattini, giusto? Ma lo sapete che ci sono persino società che fanno sharing di monopattini elettrici un po' in tutto il mondo. Abbiamo già società danesi, californiane e una fracassata di produttori italiani, bastava andare all'ECMA, alla fiera del ciclo motociclo per vederli tutti.